trovare un grafico che già vedeva un parecchio tenuto a avere preparato di andare a giocare con i vecchi bisogni di Atenio e le cose di perché se aveva avuto già le catturate una leggiare di tutto quella e di una cosa che mi dice come خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.